Amen. Antonio, hai preso un minuto e mezzo del mio tempo. Grazie Antonio. Come stiamo, chiesa? Bellissimo, è bellissimo vedervi. Andiamo subito in Genesi 12, dal versetto 1 al versetto 3. Quanti sono pronti a ricevere un messaggio direttamente da parte di Dio questa sera? Sì, siamo in aspettativa? Non quella del lavoro. Qualcuno magari lo è, però. Dio stasera vuole parlarci, sì? E quindi lo farà, come sempre, attraverso la sua parola, attraverso la Bibbia, perché tutto quello che noi crediamo, tutto quello che noi conosciamo di Dio è fondato, è scritto, è delineato nella sua parola. È per questo che leggiamo settimana dopo settimana ogni libro della sua parola, ogni libro della Bibbia, perché tutto, dalla Genesi all'Apocalisse, tutto ci descrive di quanto Dio ci ha amato. Amen? Quindi Genesi 12, dall'1 al 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Ripeti con me: ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Tu sarai fonte di benedizione. Quanti vogliono essere fonte di benedizione questa sera? Che grande promessa che Dio ci fa. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Amen. Qualche anno fa è stato fatto uno studio sociologico che ha ripreso Maxwell in diversi insegnamenti che presenta nei suoi libri. E in questo studio sociologico è stata posta una domanda, una semplice domanda, a circa 50 persone. La particolarità di questo gruppo di persone era che tutti avevano dai 95 anni in su, quindi diciamo abbastanza maturo questo gruppo. E la domanda era molto molto semplice, chiara e schietta, e diceva così: se tu avessi la possibilità di ricominciare tutto da capo, di rivivere la tua vita da zero, che cosa faresti di diverso? È una domanda bella particolare, che ci porta una bella e grande riflessione. E non è tanto particolare la domanda, quanto è particolare a chi è stata posta questa domanda, perché non è che erano adolescenti, no, di 14 anni, io studierei di più. No, erano proprio persone adulte che avevano vissuto gli alti e i bassi della vita, che avevano avuto vittorie e sconfitte, che avevano la propria famiglia, hanno avuto il proprio lavoro, hanno speso i loro giorni in maniera piena, direi, no? Per arrivare a 95 anni. Eppure la domanda era semplice: se tu avessi la possibilità di ricominciare tutto da zero, che cosa faresti di diverso? E io, quando ho letto questa domanda, me la sono posta e la voglio porre anche a voi. Se tu potessi ricominciare da zero, non ha importanza che tu abbia 95 anni o 25, se tu avessi la possibilità di ricominciare la tua vita da zero, che cosa faresti di diverso? Cosa cambieresti? Come vivresti diversamente le tue giornate? Ed è interessante perché a questa domanda sono state date tre risposte che si ripetevano, no? La maggior parte delle persone hanno risposto che magari avrebbero riflettuto di più, o che avrebbero fatto qualcosa che sarebbe stato di impatto anche dopo la loro morte. Ma la stragrande maggioranza di questo gruppo di persone ha detto: io, se potessi ricominciare da zero, rischierei di più. Correrei più rischi. Non vivrei una vita ordinaria come quella che ho vissuto, ma rischierei di più, farei qualcosa di più, correrei il rischio. E io mi rendo conto che nel momento in cui ho detto la parola rischio, ho perso forse il 40% della vostra attenzione, perché quando si parla di rischio, forse si pensa, non so, alla nuova generazione, no? Ai diciottenni, ai 25enni che hanno la vita davanti e quindi hanno tutto il tempo per correre più rischi. Perché è interessante come quanto più grandi diventiamo, quanto più adulti diventiamo, e tanto meno siamo disposti a correre il rischio. Non lo trovate buffo, non lo trovate comunque vero nella nostra vita? Non so, quando eravamo piccoli non ci pensavamo due volte a tuffarci da 20 metri e invece adesso ci pensiamo, almeno io sì, io ci penso. Io sono stata a Polignano un po' di anni fa e volevo cimentarmi in questi tuffi meravigliosi. Non l'ho fatto, sono stata lì 20 minuti e mi sono tirata indietro perché proprio ho risparmiato un po' lo spettacolo a tutta la spiaggia, diciamo così. Però più grandi diventiamo, e più difficile è correre il rischio. Perché davanti alla situazione difficile, davanti a una situazione diversa, è interessante come la mente della persona adulta sia inondata da pensieri: e se non funziona? E se non va bene? E se c'è qualcuno che magari lo sa fare meglio di me? E se mi si presenta la risposta negativa? E se? E tutti questi se molto spesso ci portano a non correre il rischio. Non pensate che sia così? O sono solo io, nonostante non abbia 95 anni, questo lo voglio sottolineare, perché insomma, è sempre meglio essere chiari. È incredibile come la nostra cultura proprio ci insegna che si sa quello che si lascia, ma non si sa quello che è. E dove sta il rischio in questo? Non cambiare perché sai quello che lasci e non sai quello che trovi. Potresti passare dalla padella alla brace. Non rischiare, è molto più comodo, è molto più sicuro rimanere, sostare nella propria zona di comfort. Rimanere a fare quello che sempre facciamo, a vivere le vite che da sempre viviamo, a sederci sulla stessa sedia ogni domenica per tutti i giorni dell'anno, per tutte le settimane dell'anno, è più facile, è più comodo. È incredibile come per noi sia molto più, più sicuro rimanere a vivere la nostra routine in tranquillità, senza problemi, senza possibilità d'errore, senza possibilità di rigetto, di essere rigettati, di essere presi in giro, di essere perseguitati. Io da circa 3 anni, che forse un po' di più, non lo so, però è da circa 3 anni che mi vorrei tagliare i capelli in una determinata maniera. E chi ride lo sa. Perché? Perché i miei amici ne hanno le tasche piene, per essere diplomatici, di quante volte abbia detto: eh sì, mi voglio tagliare i capelli, mi voglio fare un ciuffo un tantino più corto, però poi non lo so se sto bene, se sto male, se i capelli ricci, la faccia tonda. Non lo so, sono 3 anni che vado al mio parrucchiere, che vado dalla mia amica Teresa e glielo dico e poi mi tiro indietro perché non ce la faccio a correre il rischio, perché è da circa una vita intera, da quando mi sono cresciuti i capelli, che ho sempre lo stesso stile di capelli, perché è più comodo, perché so che non ho problemi. È incredibile come è da circa 3 anni che io mi do delle giustificazioni per non tagliarmi i capelli come vorrei, e tutte queste giustificazioni sono ponderate, sono giuste, sono vere, ma mi lasciano sempre con questo amaro in bocca. Perché in realtà io lo so che sono delle semplici scuse perché in realtà ho paura di correre il rischio. Sono 3 anni, ripetete con me, 3 anni. No, bugia, non dovevate ripeterlo. 3 anni che non corro questo rischio, ma non oggi. Perché oggi parliamo di correre rischi. Oggi parliamo di vivere una vita rischiosa, di affrontare le nostre paure, di affrontare le nostre circostanze in una maniera diversa, in una maniera più rischiosa, per raccogliere quelle che sono le promesse che Dio ha fatto alla vita di ognuno di noi. Per questo, siete pronti, Chiesa? Io voglio invitare Teresa. La voglio invitare velocemente. E qui c'è una sedia. Bene, sì. Dove vuoi che mi metta, Teresa, per correre questo rischio? La sedia del rischio è questa. Mi posso mettere qui, la luce? No, tranquilla. Benissimo. Ragazzi, Chiesa, questo è un momento storico. Benissimo. Corrono rischi in questa chiesa, sì! Vai Teresa! Sì! Non sono per niente agitata in questo momento! Che bello! Vai Teresa, vai! Chiesa, pregate! Chiesa, pregate che stia bene, vi prego! Teresa, sento il tuo cuore! No! Cioè, dovrei essere io quella agitata. Ok. Pastore, non esagerare! Vado? Già fatto? Perfetto. In questa chiesa corriamo dei rischi. Ebbene sì, grazie. Si è annullata la mia salivazione. Chiesa, come sto? Lo so che è un po' una domanda fuori luogo, però... Sì, sì disposto, sì disposto. Ok, adesso basta. Adesso pensiamo ad Abramo, ok? Sì disposto a correre dei rischi nella tua vita, perché c'è molto di più. C'è molto di più di quello che hai vissuto fino ad oggi. Ed è Dio stesso che ci chiama a vivere una vita rischiosa, che ci chiama a correre dei rischi. Perché la verità è che il successo, la benedizione, la vittoria sta sempre dall'altra parte del rischio che noi scegliamo di correre. O no? Il successo, la benedizione, la realizzazione delle promesse che Dio ha dato alla vita di ognuno di noi sta sempre dall'altra parte del rischio che noi scegliamo di correre ogni giorno, nelle amicizie. Nelle amicizie, corri il rischio. Per cortesia, basta. Non ti lamentare più che sei solo. Non ti lamentare più che nella chiesa nessuno ti calcola, che nessuno ti ha salutato, che magari nessuno ti ha chiamato nonostante la situazione difficile che stai vivendo. Corri il rischio di essere tu un amico prima di trovarne uno. Corri il rischio, presentati, saluta, sii aperto, dai il benvenuto alle persone che non conosci, basta lamentarti. Sii tu l'amico che vuoi trovare e poi vedrai Quanta benedizione c'è in questo. Poi vedrai quanto Dio ti coprirà, ti ricoprirà di amicizie sane, di amicizie sante. Nelle relazioni, ragazzi, tutte le relazioni, chiesa, tutte le relazioni sono il risultato di un rischio che si sceglie di correre. Micaela e Carlo stanno correndo un rischio. E io ti amerò per il resto della mia vita intera, in morte e in vita, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, per tutta la vita, quando mi va e quando non mi va, quando sono in pace con te e quando non lo sono. Questo è un rischio, è un rischio. Ma è dall'altra parte di quel rischio che ci sono relazioni sante. È dall'altra parte di quel rischio che ci sono matrimoni che vivono, che durano per tutta la vita. Tu che stai pensando a quella ragazza da ormai un sacco di anni, basta ad aspettare, invitala per prendere un caffè. Corri il rischio! Corri il rischio! Tu! Ragazza, tu non me l'aspettavo questa reazione. Tu ragazza che stai pensando a quel ragazzo da ormai troppo tempo e non lo sai se tu gli piaci o meno, chiediglielo. Perché male male ti può dire di no, però tu sei quella che ti liberi dal pensiero costante. Non sto parlando di me. Chiesa, corriamo il rischio, corriamo il rischio. Quella carriera che hai sempre desiderato, quel percorso di studi che hai sempre voluto intraprendere, corri il rischio. Che cosa stai aspettando? Studia, preparati, specializzati. Manda il tuo curriculum, presentati a quel colloquio di lavoro, anche se non ti senti capace, anche se c'è paura, corri il rischio, perché la benedizione sta dall'altra parte del rischio che scegli di correre oggi. Sì, chiesa, qui non si parla di capelli, qui si parla di vita vera. E la Bibbia è piena di persone che hanno scelto di correre il rischio. Perché? Perché Dio ci chiama ad una vita straordinaria, ad una vita che è più grande di noi, ad una vita che non vuole essere solo una vita nella quale tutto gira attorno a noi, ma una vita nella quale noi siamo di benedizione agli altri e quindi dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. Il Signore ci chiama a correre il rischio e Abramo, quei versetti che abbiamo letto all'inizio, Abramo è solo uno dei tanti personaggi della Bibbia che hanno detto sì alla chiamata di Dio e hanno detto sì, voglio correre questo rischio. Ad Abramo aveva 75 anni e Dio gli si presenta e gli mette davanti un rischio da correre, un rischio che stava in mezzo tra la sua vita ordinaria e la vita straordinaria alla quale Dio lo stava chiamando. Sapete, Abramo aveva una bella famiglia, era benestante, aveva il rispetto di tutte le persone che lo circondavano, aveva una vita bella, comoda, ordinaria. E poi a 75 anni Dio si presenta e gli mette davanti un rischio che stava in mezzo tra quella vita ordinaria e la vita straordinaria. E io sono convinta che Dio stia mettendo nel nostro cuore un rischio da correre e nella nostra chiesa un rischio da correre. Quale sarà la nostra risposta? Abramo, quattro cose che possiamo imparare da Abramo. Ho appena visto i miei capelli. Abramo aveva 75 anni. E questo mi insegna che non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi per vivere al centro della volontà di Dio. Non si è mai né troppo giovani né troppo anziani per vivere al centro della vita abbondante che Gesù ha pagato per ognuno di noi. Questo non è un messaggio per gli adolescenti, non è un messaggio per le persone giovani, questo è un messaggio per tutte quelle persone che si sono alzate stamattina, che avevano dell'ossigeno nei loro polmoni e che quindi possono portare a termine la chiamata che Dio ha affidato ad ognuno di loro. Tu sei vivo, non sei vivo solo per continuare la vita come hai vissuto fino ad ora, tu sei vivo perché puoi puoi vivere le promesse che Dio ha messo nella tua vita, puoi essere ambasciatore di Gesù, puoi predicare il Vangelo, puoi far sì che Gesù, che è vivo, sia al centro della tua vita. Non è mai troppo tardi, al lavoro, in famiglia, nei tuoi studi, nella tua vita personale, nel tuo matrimonio, Dio ti chiama a correre dei rischi, Dio ti chiama a vivere una vita straordinaria, che tu abbia 20 anni o che tu ne abbia 85. Se sei vivo, Gesù non ha finito con te. E noi come Chiesa abbiamo bisogno della tua radicalità. Amen? Quanti vogliono correre il rischio? Due, Dio dice ad Abramo di lasciare la sua casa, di lasciare i suoi parenti e di lasciare la sua terra. Allora la domanda che io mi sono posta e che oggi pongo a te: che cos'è che devi lasciare? Cosa ti sta ostacolando dal vivere la vita straordinaria, dallo sperimentare i miracoli che Dio vuole fare in te e attraverso di te? Che cosa sta in mezzo tra la tua vita ordinaria e la vita straordinaria che Dio vuole che tu viva? Abramo doveva lasciare la sua terra, la sua città, i suoi parenti. Tu che cosa devi lasciare? Forse questo è un invito a lasciare le nostre abitudini, a lasciare le nostre attività così ordinarie e a correre il rischio giorno dopo giorno di leggerla quella Bibbia, di pregare, di approfondire la nostra relazione con Gesù. Che cosa devi lasciare? Forse sono quelle amicizie che non ti incoraggiano a vivere la vita che Dio ha preparato per te, quelle amicizie che ti scoraggiano, quelle amicizie che dicono non ce la fai, siediti per cortesia, cosa vuoi fare? Forse le devi lasciare e devi attorniarti, devi accerchiarti di quelle persone, di quegli amici che sono scomodi, che ti vogliono far crescere, che vedono il potenziale in te e ti spronano a vivere una vita affinché tu possa raggiungere quel potenziale, affinché tu lo possa esprimere, che ti dicono: ehi, basta, non uscire, studia perché ti devi laureare, basta, prendi quel lavoro, impegnati, servi in chiesa, adora Dio, basta il compromesso nella tua vita, fa sì che Gesù sia al centro. Sono questi amici che ci fanno crescere, sono questi amici scomodi. Corri il rischio di distanziarti da chi vuole che tu viva, coscientemente o meno, una vita mediocre, e attorniati delle persone che vogliono il meglio per il tuo destino. Forse devi lasciare l'idea che tu hai di te stesso. Devi lasciare l'idea che tu hai di te stesso e correre il rischio di credere che tu sei stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, di credere che tu sei stato creato perché da Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente già preparato per te affinché tu potessi camminare in esse. Non pensare che non sei capace, non pensare che è troppo tardi, non pensare che ormai il treno è passato e non c'è neanche un altro. Chi l'ha scritto? Dove sta scritto? Nella Bibbia, la Bibbia che io leggo, descrive un Dio della prima, della seconda, della milionesima opportunità. Non di un treno che forse abbiamo perso. Cambia l'idea che hai di te stesso. Cambia l'idea che hai di Dio. Di questo Dio distante. Di questo Dio severo. di questo Dio che usa solo le persone che hanno la possibilità di parlare dal palco. No! Cambia l'idea che hai di Dio, di un Dio che ti condanna, e rischia di approfondire la tua relazione con un Dio che ha mandato suo figlio Gesù affinché tu non potessi essere condannato, ma affinché tu potessi essere salvato. Perché è questo il nostro Dio. Amen, Chiesa? Stai pensando a cosa devi lasciare? 3. Dio affida ad Abramo una missione e una promessa. Dio ha una missione e una promessa per ognuno di noi. Dio ha una missione e una promessa per la sua Chiesa. Perché la realtà è che Dio, che Gesù, non è morto e poi risorto solo per salvarti. La realtà è che Gesù è morto e ha vinto quella morte, sì, per salvarti, ma anche per chiamarti a una vita con proposito, a una vita di significato, a una vita che vive al centro delle promesse di Dio e che estende la possibilità di essere salvato a tutti coloro che ancora non conoscono Gesù. Tu non sei solo salvato. Tu sei anche chiamato a questa vita straordinaria, a questa vita rischiosa, a questa vita dove devi lasciare l'ordinario per abbracciare le promesse che Dio ha per te. Qual è la promessa che Dio ti ha fatto? Che cosa ti sta chiedendo di lasciare? Noi come Chiesa abbiamo una promessa e una chiamata. Non siamo qui solo per amarci l'un l'altro, coccolarci l'un l'altro, edificarci, perché poi usiamo anche le parole belle, specifiche. Siamo Chiesa per edificarci, è vero, ma siamo Chiesa anche per predicare il Vangelo, affinché queste 300 persone possano diventare 600, e poi 1000, e poi 10.000, affinché Modugno possa essere salvata, affinché Bari possa essere salvata, e poi la Puglia, e poi l'Italia, e poi le nazioni. È finito il tempo di venire in Chiesa solo quando ci fa comodo. È finito. Corriamo il rischio di venire ogni domenica, domenica dopo domenica, di frequentare, di appartenere. Chiesa, corriamo questo rischio, corriamo il rischio di appartenere in tutto e per tutto alla Chiesa di Cristo. Non a venire in Chiesa solo quando finiamo di mangiare presto. Non a venire in Chiesa solo quando c'è comodo, solo quando andiamo d'accordo con tutti, ma a venire sempre, in tempo e in fuori di tempo. Perché te lo dico, è sempre tempo di venire, non c'è un fuori di tempo. È finito il tempo di venire in Chiesa per essere spettatore. Corri il rischio di sporcarti le mani, corri il rischio di servire, corri il rischio di uscire dalla tua zona di comfort e di servire la Chiesa e di servire i tuoi fratelli e sorelle, di servire la comunità e di servire le nazioni. Corri questo rischio. È di questa vita straordinaria che stiamo parlando, non di ricchezze, non di carriera, è di questa vita straordinaria. È finito il tempo di dare a Dio quello che ci avanza. Corri il rischio di essere disciplinato nelle tue decime e nelle tue offerte, mese dopo mese, per tutti i mesi dell'anno. Corri questo rischio. È finito il tempo di venire in Chiesa e di essere comodi guardando quelle sedie vuote o ancora peggio impilate. Basta. Dio ci chiama ad una nuova stagione. Amen, Chiesa? Dio ci chiama a riempire queste sedie, a riempire le sedie impilate, ad essere una testimonianza nella nostra famiglia, sul nostro posto di lavoro, nella città di Modugno. O no? Sì? È finito. È finito il tempo di dire ormai è troppo tardi. Fallo quel corso. Iscriviti. Dammi il tuo nominativo. Vai, parti per quel viaggio missionario, rischia, intraprendi quella carriera, intraprendi quel percorso di studi, lavora per le tue relazioni sante. Sapete, Fare la volontà di Dio non significa stare qui. Fare la volontà di Dio può significare anche avere una carriera lì fuori nel mondo che onora Dio. Fare la volontà di Dio vuol dire non imbrogliare sul posto di lavoro, non fare investimenti che non glorificano Dio. Fare la volontà di Dio vuol dire far crescere una famiglia nel rispetto, nell'amore di Dio. Forse questa è la tua vita rischiosa. Non ti accontentare di quello che hai oggi, perché c'è di più. La quarta cosa che possiamo imparare da Abramo è che la sua missione, che la missione che Dio ha affidato ad Abramo, e la promessa che ha affidato ad Abramo, assolutamente, e io qui penso che siate tutti d'accordo con me, non aveva senso. Cioè proprio non aveva alcun senso logico. Le parole che Gesù, che Dio ha detto ad Abramo, sono quelle che abbiamo letto. Va, lascia tutto e va in un posto che io ti mostrerò. Cioè non c'era bussola, non c'era GPS. Antonio Memola c'era la bussola. È strano, lui la porta sempre appresso, non lo so perché. Comunque, non c'era mappa, non c'erano indicazioni. Va in questo posto che io ti mostrerò. Non aveva senso. Non aveva alcun senso. E allora Abramo, ascoltatemi bene, Abramo ha dovuto scegliere di correre il rischio. Abramo ha dovuto scegliere di avere fede, che per definizione, l'abbiamo detto prima, è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Perché se c'erano indicazioni, mi volete spiegare a che cosa sarebbe servita la fede? A un bel niente. Perché serviva solo seguire le indicazioni belle e precise. Ma Dio non piace lavorare così con noi. Dio ci vuole far crescere nella nostra fede, ci vuole dare coraggio, ci vuole far sì che noi possiamo vivere la chiamata divina che Lui ha per noi, non a modo nostro, ma a modo suo. Abramo ha scelto di avere fede. Non lo sapeva dove stava andando, non aveva idea. Ci rendiamo conto? Abramo ha detto, ehi, io non lo so dove devo andare, ma so che non posso stare fermo qui. Io non lo so come devo fare, ma so che devo muovermi, che devo andare, che devo correre il rischio. E questo, Chiesa, deve essere lo stesso sentimento, questo di Abramo, deve essere lo stesso sentimento che ci accomuna, che ci deve accomunare. Io non lo so dove devo andare, ma so che qui non posso stare più. So che questo non è più il mio posto, che devo crescere, che devo andare, che devo correre il rischio. E forse tu non lo sai come devi parlare al tuo amico di Gesù. Forse non hai idea di come puoi condividere la salvezza con chi ancora non la conosce. Però lo sai che lo devi fare. Lo sai che devi correre il rischio. Allora ti inventi tutte le strategie possibili e immaginabili. Ti inventi 3 compleanni all'anno per invitare il tuo amico a mangiare questa torta per il tuo finto compleanno, così che tu possa parlare di Gesù con lui. Non lo so come devo fare, però lo faccio. Forse non lo sai come devi fare a dare la decima tutti i mesi. Non lo sai come devi fare a servire nella chiesa durante la settimana, però sai che non ne puoi più fare a meno. Sai che è arrivato il momento di andare, di correre il rischio, perché c'è un qualcosa di più. Forse non lo sai come andrà a finire quella relazione, quell'amicizia, però sai che devi fare qualcosa. Fallo. Corri il rischio. Sì? Allora io voglio concludere dandovi, se mi potete permettere, 3 consigli per vivere delle vite rischiose. Quanti lo vogliono sapere? Okay, mi dispiace perché non ho alzato la mano, però insomma, dovete ascoltarmi. Comunque, 3 tips, 3 consigli per vivere una vita rischiosa. Il primo. State prendendo appunti? No, perché è scientificamente provato che il 98% delle persone che prendono appunti vanno in paradiso. Quindi, bene sorella, grazie. Perfetto, starò insieme a te in paradiso. Primo consiglio. Non prenderti troppo sul serio. Vedo tanti punti interrogativi. Lo so che noi spesso non predichiamo questo. Però non prenderti troppo sul serio. Rilassati. Sei tranquillo. Divertiti con Dio. Non è tutta questione di vita e di morte. È incredibile come quando c'è proprio si ha a che fare con quei credenti che conoscono Dio, che hanno la fronte sempre così, proprio seri. Non mi posso divertire perché sto servendo. Vabbè, però mi fai passare tutta la voglia di servire se fai così. Non posso avere niente a che fare con te perché tu non sei santo, io sì. Abbiamo capito tutto. Corri il rischio. Corri, sii te stesso. Sii te stessa, non imitare. Rilassati. Perché così diventi attraente. Perché così rendi Dio attraente. Non perché Dio non lo sia già, assolutamente, ma perché c'è un'idea sbagliata. Quindi, primo consiglio. Ma tutti pagliacci nella chiesa, no. Secondo, impara a fallire con stile. Perché chiesa, la realtà è che rischiare, che vivere una vita più grande di come siamo noi, rischiare comprende appieno la componente del fallimento. Tu sbaglierai, tu fallirai. È inevitabile ed è anche molto normale. Però puoi fallire con stile. Non si può pretendere di correre il rischio senza sbagliare. Però rischiando cadiamo e ci rialziamo più forti. Rischiando sbagliamo e poi recuperiamo. Perché quel treno passa e poi passa di nuovo e poi passa di nuovo. Forse nel condividere Gesù, nel condividere la salvezza che noi abbiamo ricevuto da Gesù, le persone ti prenderanno in giro. Forse non ne vorranno proprio sapere. Forse ti perseguiteranno. Forse ti allontaneranno dalla loro cerchia di amici. Rischia. Rischia, non fa niente, perché tu sei qui perché qualcuno ha rischiato per te. Io, se devo pensare alla mia vita, io mi rendo conto di essere molto giovane, però se devo pensare a tutte le cose che Dio mi sta dando la grazia di fare e che funzionano e che stanno andando bene, io devo per forza riconoscere che tutte queste cose sono state precedute da una montagna di fallimenti, da una montagna di errori. Però se mi fossi fermata, allora non vivrei appieno le promesse e la volontà che Dio ha per me. E lo stesso vale per te. Corri il rischio, perché il vero fallimento, chiesa, ascoltami bene, il vero fallimento è smettere di provarci. Allora, forse la prima settimana, il primo mese del tuo servizio nel team dell'accoglienza sarà terribile. Proprio sbaglierai a fare tutto e verranno date tutte le persone che meno ti piacciono. Però il secondo mese andrà meglio. Magari il primo mese, dove tu prendi la sfida, accogli la sfida di guidare un gruppo in casa, andrà malissimo, nessuno verrà e ti criticheranno pure il divano che c'hai. Però il mese successivo il divano già lo conoscono e incomincerai a raccogliere i frutti di quello che hai seminato. Corri il rischio. Fai delle cose che non hai mai fatto. Fa sì che queste cose portino gloria a Dio. E il terzo consiglio. Quindi, non ti prendere troppo sul serio. Impara a fallire con stile. E poi corri. Corri verso le cose che ti fanno paura. Corri verso le cose che ti spaventano. Perché se una cosa non ti spaventa, probabilmente non ne vale la pena. Probabilmente sei capace di farlo da solo. Non hai bisogno dell'intervento divino di Gesù. Ma voi pensate che io non ho paura di incominciare il consolidamento 2? Sì, i miei genitori lo sanno. Però corri il rischio, perché questo dà gloria a Dio. Sii coraggioso. E attenzione, perché essere coraggiosi non vuol dire non avere paura, ma vuol dire avere il coraggio di vincerle, quelle paure. Perché Chiesa, io non penso che Abramo, quando è partito, quando ha fatto le valigie e ha detto alla moglie, andiamo, e la moglie ha chiesto dove, e gli ho risposto, non lo so, io non penso che lui non abbia avuto paura. Però ha affrontato quella paura ed è diventato l'inizio del popolo di Israele. Ha dato inizio alla storia del Vecchio Testamento e poi del Nuovo Testamento. Io non penso che Mosè, quando è andato balbettando davanti a quell'imperatore, davanti a quel faraone, io non penso che non abbia avuto paura. Però ha detto la volontà di Dio, ha verbalizzato quello che Dio aveva messo nel suo cuore e ha liberato il popolo. Che cosa sarebbe successo se lui non l'avesse fatto? Se lui si fosse fermato perché aveva paura? Io non penso che Davide non abbia avuto paura davanti al gigante filisteo. Io penso che le gambe gli stessero proprio tremando mentre correva con la sua fionda e le sue 5 pietrine. Però ha corso il rischio per poi diventare il re più grande di Israele. Che cosa sarebbe successo se Pietro, se tutti gli altri discepoli si fossero fermati davanti alla paura che avevano di predicare? Noi probabilmente non saremmo qui. Che cosa sarebbe successo se Paolo alla prima prigionia si fosse arreso, alla prima tortura si fosse arreso? Noi non saremmo qui. Gesù, io non penso che Gesù non aveva paura davanti a quella croce, però ha corso il rischio di morire, di addossarsi di tutti i peccati di chi lo aveva appena crocifisso per compiacere al Padre, per fare la volontà del Padre, per realizzare la promessa, le profezie e il piano che Dio aveva dall'inizio dei tempi. Che cosa sarebbe successo se Gesù si fosse fermato? Questa volta non è un probabilmente non saremo qui, ma è un certamente non saremo qui. Allora è chiaro vedere nella parola di Dio come il successo, l'adempimento della promessa sta sempre dall'altra parte del rischio che ognuno di noi sceglie di correre. Allora, qual è il rischio che tu vuoi correre oggi? Perché la scelta è questa: o possiamo arrivare a 95 anni e pensare a che cosa avremmo fatto di diverso, a come avremmo potuto vivere la nostra vita diversamente, oppure possiamo incominciare oggi. Allora io non lo so, tu che cosa vuoi fare? Però diciamo che abbiamo deciso di correre il rischio. Abbiamo deciso di correre in tutte le aree della nostra vita, in tutte le cose che Dio ci chiama a essere e a fare. Non ti accontentare di chi tu sei oggi, di come hai vissuto la tua vita fino ad ora, ma rischia. Chiedi a Gesù che cosa devi lasciare per vivere la realizzazione delle promesse che Lui ha per te. È una realizzazione della promessa, una promessa che noi tutti quanti vogliamo vedere realizzata, è la crescita del regno di Dio, è la crescita della Chiesa, della sua Chiesa. Sono persone, così che ci capiamo, sono persone che non conoscono Gesù e che hanno bisogno di conoscerlo. E hanno, loro, le persone hanno bisogno che tu corri il rischio di aprire la tua bocca e di predicare il Vangelo. Puoi aspettare 95 anni e chiederti, mo, forse quell'amico avrei potuto parlare. Oppure puoi farlo oggi. Amen? Sì? Perché non ci alziamo in piedi, così preghiamo? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu ci chiami a vivere delle vite più grandi di noi stesse, di noi stessi. Signore Gesù, tu ci chiami a rispondere a delle chiamate che sono più difficili di quello che noi possiamo fare senza di te. Signore Gesù, tu ci chiami a vivere delle vite che siano di impatto per le persone che ancora non ti conoscono. Tu ci chiami, Signore Gesù, a correre dei rischi affinché tu, Gesù, possa avere tutta la gloria. Io ti prego, Signore, che qualsiasi sia la sfera della nostra vita dove noi dobbiamo correre dei rischi, Gesù, io ti prego che noi possiamo farlo, che possiamo obbedire alla tua volontà, che possiamo rinvigorire la nostra fede, che possiamo vivere, Signore Gesù, delle vite pericolose, delle vite rischiose, delle vite, Gesù, che vanno oltre il nostro naso, che delle vite che vanno oltre la nostra quotidianità, delle vite che vanno oltre le nostre abitudini, quello che ci piace, quello che ci fa stare comodi. Ma Gesù, io ti prego che tu, Signore, ci possa chiamare a vivere delle vite secondo la tua volontà, a vivere delle vite secondo quello che è la chiamata e la promessa che tu hai affidato ad ognuno di noi, Signore. Gesù, noi ti vogliamo mettere al centro. Noi vogliamo, Signore Gesù, che tu, Signore, prenda gloria da tutto quello che noi diciamo, da tutto quello che noi facciamo, Gesù, da ogni rischio che scegliamo di correre. Padre, io ti prego di parlare al cuore della tua Chiesa. Ti prego di mostrarci quello che dobbiamo abbandonare, quello che è l'ordinario che dobbiamo abbandonare per abbracciare, Signore, la vita straordinaria che tu hai in serbo per noi. Perché, Chiesa, non alzi le tue mani e non incominci a parlare con Gesù, a prendere la decisione di correre il rischio per la sua gloria, di fare la sua volontà. Coraggio, Chiesa, alza le tue mani, incomincia ad adorare Gesù, incomincia a pregare, incomincia a prendere delle decisioni, incomincia a scegliere di mettere Dio al centro in tutto e per tutto. Amen? Amen?